Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 17 febbraio, bentornati, buongiorno di nuovo a tutte e tutti i nostri teleradioascoltatori che ci seguite su Liberi Dentro Eduradio TV, o se siete nuovi, questo è un programma Liberi Dentro Eduradio che fa da ponte tra carcere e città ormai già da 2 anni, il primo in fase sperimentale, il secondo già in maniera più strutturata, e che vuole essere un tramite per far conoscere il carcere alla cittadinanza e viceversa garantire un reintegro in società. Io sono Caterina Bombarda e qui con me c'è Antonella Cortese. Buongiorno a tutti e a tutti, ciao Caterina. Ogni tanto, Antonella, mi piace ricordare le nostre origini prima di attaccare con le notizie quotidiane, anche perché magari non tutti sanno chi siamo e cosa stiamo facendo. E quindi partiamo già dalle notizie. Leggo da Il Dubbio: così un giudice ha salvato un ragazzino dal baratro. Questo articolo a firma di Annalisa Costanzo ci riporta nel 2017 a una storia che forse molti di voi conoscono, si ricordano. Quando nel piccolo centro di Santa Maria di Zevio, nel Veronese, un 17enne diede fuoco all'auto di una persona senza tetto che rimase uccisa. Si era trattato di uno stupido scherzo iniziato per noia, non ci potete credere, ma veramente la motivazione fu questa: non sapevano che cosa fare, evidentemente, insieme a un altro ragazzino di 13 anni che però questo scherzo per noia è costato la vita a Ahmed Fidl, un senzatetto marocchino di 64 anni. Sì, era capricciante appunto fare queste azioni per noia, tra l'altro, ma volevo dirti, sono passati 5 anni ormai e questo ragazzino che cosa sta facendo? Che fine ha fatto? Guarda, dopo l'omicidio il processo è stato sospeso ed è stata disposta la messa alla prova perché si trattava di una persona minorenne. L'allora 17enne, l'unico imputato per l'omicidio di Ahmed, si è rimboccato quindi le maniche e ha lavorato sodo su se stesso, soprattutto per non sprecare quell'unica possibilità di redenzione che il giudice gli aveva dato. Un giudice che ha deciso quindi di interpretare alla lettera l'articolo 27 della Costituzione, che dice che le pene devono tendere alla rieducazione della persona condannata e non alla sua espulsione dalla società, proprio come la stessa procura aveva richiesto. Senti, di che cosa si è occupato in questi 4 anni di messa alla prova? Guarda, lui ha lavorato al servizio della comunità all'interno di una comunità terapeutica di recupero, si è occupato anche di persone disabili, ha proseguito gli studi, tant'è che adesso vorrebbe, si è diplomato, vorrebbe diventare chef, e ha proseguito poi con un percorso di psicoterapia, così come era stato disposto dal giudice. E anche se i sensi di colpa, naturalmente per quello che ha fatto, lo accompagneranno per il resto della sua vita, adesso almeno è un uomo libero. Certo, è stato un percorso complicato, siccome quando nel 2017 per noia bullizzava il 64enne marocchino, questo ragazzo non era certo di facile gestione. Proveniva da uno stato dell'est Europa, non era riuscito a integrarsi nella comunità veronese tra i suoi coetanei e aveva stretto amicizia con un ragazzino di età inferiore, tredicenne, anche lui straniero del Nord Africa, con cui passava molte ore della sua giornata, compresa quella giornata del 13 dicembre del 2017 in cui compì questo atto veramente orribile. Quindi Caterina, l'unico ad essere processato fu questo ragazzo che al tempo aveva 17 anni e che adesso ne ha 21. Esatto, ma la giudice Maria Teresa Rossi, tenendo conto, come dicevo, della giovane età dell'imputato, ha deciso di escludere la misura detentiva in carcere e ha scelto di applicare, secondo anche la legge dell'ordinamento italiano, la prova ai servizi sociali. Il Tribunale di Verona ha dunque puntato tutto sul recupero di questa persona e, viste anche le positive reazioni dei servizi sociali, non ha fallito. E dice anche il suo avvocato di questo ragazzo Giovanni Bondardo: chapeau, quindi complimenti a chi ha capito che poteva tentarci e a chi dopo, assistenti sociali e comunità, ha lavorato sul ragazzo. Gli assistenti sociali hanno fatto un buon lavoro, la struttura che l'ho avuto in affidamento ha lavorato molto bene, il ragazzo si è impegnato e adesso è cambiato completamente, ha concluso l'avvocato. Senti, dopo questi anni trascorsi in comunità, dopo aver pensato di diventare chef, perché prima ce l'hai raccontato, questo ragazzo oggi che vita fa? Beh, allora, alcuni mesi fa ha potuto riabbracciare la sua mamma, con la quale adesso vive, è sempre nel Veronese. Da uomo libero ha ripreso quindi a sognare anche, vuole una vita normale, non dimentica però e non dimenticherà mai quello che ha fatto, come non dimentica la comunità di questo piccolo paesino nel Veronese, questo fatto tragico, siccome noi non abbiamo toccato, però spesso capita in queste notizie di cronaca di non toccare la vita della vittima, ma in questo caso è importante perché questo Ahmed Fidel era una persona che si era perfettamente inserita nel suo contesto sociale, lavorava e viveva in una macchina semplicemente perché aveva perso il lavoro e quindi la sua Fiat era diventata provvisoriamente la sua abitazione. E però non immaginava che quella macchina sarebbe diventata anche la sua tomba. Quindi uno scherzo che ha ucciso un uomo e cambiato per sempre le vite di questi, anche di questi ragazzi coinvolti. Ma mentre magari ci scrivete che cosa ne pensate di tutto questo, redazione Biridentro, @gmail.com, ascoltate una canzone, siamo con Vinicio Capossela, ovunque, proteggi, a tra pochissimo. Fuori guardo intorno, come gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi, quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, è scritto nel ferro del cerchio di un anello. E ancora mi innamora e mi fa sospirare così. Adesso e per quando tornerà l'incanto. Trovi stanco, se mi trovi spento, se meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me. I vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che troppo e per poco. E non basta ancora ed è una volta sola, ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà il tempo per partire. E rieccovi, bentornati, proseguiamo con Antonella Cortese, ancora una storia di resilienza, potremmo dire, Antonella, di rinascita. Sì, si ricollega molto a quello che hai raccontato tu prima, Caterina, perché questa è un po' una sorta di favola vera di una ragazza italiana con un passato terrificante che ha saputo uscire dall'inferno e che oggi fa la volontaria in Africa con i bambini di strada. E ho letto questo articolo a firma di Marco Trovato e mi è sembrato carino raccontarlo perché Melissa, che è una ragazza appunto che si è rimessa in gioco, lavora con i bambini di strada che lei dice hanno cicatrici invisibili, il loro sguardo è una maschera che nasconde sofferenze terribili e lei quel dolore lo conosce fin troppo bene. E Melissa, appunto, è una ragazza nata 25 anni fa in Colombia, cresciuta sulle strade di Girardot e Bogotà. E il padre, invalido per un ictus, è morto molto, molto presto. La madre, praticamente si prostituiva e beveva, insomma una famiglia sulla quale non poteva assolutamente contare né lei né ovviamente i suoi fratelli. In realtà Melissa parla di se stessa come se raccontasse la trama di un film, invece è proprio la sua vita e quella dei suoi quattro fratelli che erano lasciati soli sulla strada, che era diventato il posto della libertà, ma anche del pericolo ovviamente. Non avevano regole, non avevano orari, i servizi sociali a un certo punto sia gli aprirono le porte dell'orfanatrofio, finirono in una famiglia affidataria che si prese cura di loro, però a suon di insulti e cinghiate, perché purtroppo anche questo può succedere e tutte le leggi che ci sono a tutela dell'adozione mirano proprio affinché questo non avvenga. E poi un elemento comune di queste storie che vengono da lontano è di pensare all'Italia come il paese delle libertà. E come è arrivata questa ragazza in Italia? Guarda, questa ragazza è stata fortunata perché poi c'è stata una coppia italiana che l'ha adottata e non ha adottato solo lei ma anche due fratelli. Aveva 9 anni quando partì per Milano e ovviamente era frastornata, intimorita, non capiva che cosa stesse succedendo e ci è voluto un bel po' di tempo per scrollarsi di dosso l'orrore e ritrovare un po', diciamo, il timone, no? Ricominciare a pensare a vivere serenamente questa vita familiare. Infatti Melissa dice anche una cosa molto giusta, che l'adozione è una scommessa. È quasi un azzardo quando si viene sradicati dal proprio mondo e si finisce in altri continenti. Lei dice che nel suo caso la scommessa è stata vinta, per fortuna, perché sono stati accolti in una famiglia che ha permesso loro di accedere a tutte le nuove possibilità di crescere. Ha recuperato la fiducia in se stessa, la fiducia nel futuro. E ora si è messa a disposizione del prossimo, di chi non ha avuto la sua stessa fortuna, e così ha studiato per diventare assistente sociale ed è partita per l'Africa. E adesso dove fa volontariato, Melissa? Sta trascorrendo un anno di volontariato in Malawi, nell'ambito del Servizio Civile Universale. A Balaka, che è una cittadina rurale del sud del paese, si prende cura di decine di street children ospitati nella casa famiglia Tigawane, che significa in lingua locale condividiamo, gestita da Orizzonti Malawi Onlus. Gli ospiti, i piccoli ospiti in genere, sono orfani o bambini comunque abbandonati dai genitori, che scappano da famiglie disastrose, violente. Melissa racconta che ci si ritrova molto con questi bambini, perché ritrova i tormenti che ha vissuto lei quando era una bambina di strada: soprusi, umiliazioni, i morsi della fame, la paura del buio. Ma immaginate un bambino che deve stare di notte per strada da solo, Melissa ricorda tutto di quell'infanzia negata, le giornate passate sui marciapiedi con gli abiti laceri, in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti, l'odore d'alcol dei bar frequentati dalla mamma, i clienti con cui si appartava nelle stanze lerce, la gentaglia che incontrava nei vicoli dove si sniffava la colla, poi le retate della polizia, le notti interminabili e piene di insidia. Quindi è un passato davvero difficile con cui convivere. Sì, certo, un passato difficile. Bisogna anche dire che lei è stata fortunata perché ha avuto sempre un fratello maggiore che l'ha aiutata e l'ha protetta. E oggi lei lavora, diciamo, in Africa, fa questo volontariato in Africa, però vorrebbe ritornare a Bogotà, dove ci sono migliaia di gamines, che sono i minori che hanno per casa la strada, vivono di espediente, accattonaggio, piccoli furti, prostituzione. E lei, diciamo, come progetto futuro, spera di tornare in Colombia proprio per aiutare tutti questi bambini. Questi bambini che, Caterina, ti dico in due parole, hanno imparato, grazie alla casa famiglia, quando si trovano in queste situazioni, come si vive. I tempi, c'è il pranzo, i giochi, i disegni, i film, cose che per un bambino di strada immagino che sono completamente inimmaginabili. E quindi Melissa dice: spesso in Africa trovo questi bambini impauriti e l'unica cosa che posso fare è abbracciarli, perché non ci sono parole, c'è soltanto l'amore e il calore che trasmette forza e comprensione. E restiamo a questo punto in Colombia con un gruppo che si chiama La 33 e una famosissima canzone che si chiama Patacón con Queso. E poi dopo non andate via, perché sentiamo ancora l'intervista di Caterina Giuseppe Matulli, presidente dell'Associazione per i diritti dei detenuti Pantagruel, presso il carcere di Solliciano. A dopo. Y en el teclado, Santiago Mejía. Eccovi e bentornati, siete sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV e proseguiamo anche oggi l'intervista con l'ospite del giorno. Già da martedì è Beppe Matugni, che è presidente dell'Associazione per i diritti dei detenuti Pantagruel. E ieri proprio ci ha raccontato della situazione del carcere di Sollicciano, che purtroppo è molto indecoroso dal punto di vista strutturale per la vita delle persone che lo abitano, ma voi cercate di animare questa realtà carceraria con tante attività. Tra queste ce n'è una che mi ha incuriosito tantissimo, si chiama Educare con gli asini. Di cosa si tratta? Noi abbiamo diversi progetti che abbiamo fatto cercando di essere finanziati. I nostri finanziatori, che voglio ricordare perché dimostrano una sensibilità, sono l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, l'Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Tavola Valdese e la Caritas. Sono un po' questi che ci finanziano. Allora, da molto tempo, da molto prima che arrivassi io, c'era questa combinazione molto interessante. Naturalmente nei 150.000 metri quadri di Sollicciano c'è anche molto spazio aperto, ovviamente. E nello spazio aperto ci sono queste due asinelle, e il progetto consiste nel impiegare tre detenute nella cura di queste asinelle. E queste sono, seguite anche, oltre che da un volontario nostro, che da una figura particolare, è una donna sarda molto, molto interessante, a Cannas, che è veterinaria e psicologa, e la psicologia è la psicologia del, appunto, educare con gli asini, ma lei è una professionista di questo ed è molto molto molto interessante. E fra l'altro una cosa che io ho verificato, cioè noi siamo abituati da Pinocchio in poi a ritenere che gli asini fossero l'espressione della stupidità, della incapacità a capire, eccetera. Invece pare che gli asini siano le persone, gli animali più intelligenti. Il progetto Francesco è un progetto di straordinaria importanza. Il progetto Francesco è un progetto che noi, Francesco si chiamava prima che diventasse Papa Bergoglio, per cui hanno cambiato il nome, era il progetto Giobbe, si chiamava, e lo gestiva la nostra associazione con un'altra associazione, cioè l'altra associazione con la nostra, perché sono stati loro a cominciare, l'associazione del volontariato penitenziario, e noi con la raccolta di indumenti. Quindi noi abbiamo un volontario. Ora poi con questa associazione siamo proprio in una collaborazione per cui non si capisce più, cioè siamo molto uniti. Loro hanno anche un centro esterno, proprio così, di centro attavante, di raccolta senza fissa dimora, insomma. E allora c'è un nostro volontario la cui attività è girare in continuazione fra le parrocchie o anche privati, eccetera, a raccogliere indumenti usati, smessi, diciamo, e poi che vengono portati in carcere, in questo magazzino, che è il magazzino del progetto Francesco, dove volontari nostri e della VP, dell'Associazione Volontari, quotidianamente vanno a tenere in ordine tutto quello che c'è, quindi tenere distinti i capi d'abbigliamento anche con le dimensioni dei capi d'abbigliamento. Poi noi cerchiamo di provvedere alle cose che normalmente non si trovano, le scarpe, la biancheria intima, c'è il problema delle mutande che è fondamentale, quindi ogni tanto ci sono le nostre volontarie che vanno a comprare stock di mutande o le scarpe dove capita, eccetera, eccetera, perché sono quelli che... E i detenuti indigenti, che c'è almeno un terzo dei detenuti, almeno 150, che sono detenuti totalmente indigenti, che non hanno, non solo non hanno familiari, non hanno persone, ma non hanno nessun tipo di reddito. E quindi questi qui, naturalmente, al cambio di stagione, compagnia bella, ma in varie, hanno bisogno di e quindi i nostri volontari, oltre a tenere in ordine il magazzino che viene continuamente alimentato, sono lì a fare i pacchi sulla base delle richieste che fanno i detenuti indigenti. Colgo tantissime somiglianze con l'associazione AVOC, che qui a Bologna per il carcere della Dozza fa la raccolta degli abiti. E c'è un'altra somiglianza, perché un'altra attività che voi dell'associazione Pantagruel fate è quella dei prelievi bancomat, che è un'attività un po' particolare. Raccontaci in cosa consiste e perché è nata questa esigenza. Ma l'esigenza è nata... tre anni fa forse, fu il direttore del carcere di Sollicciano che chiese se noi eravamo disponibili a assumerci questo onere. E consiste in questo, che i detenuti, naturalmente i detenuti che hanno i familiari che li vanno a trovare risolvono il loro problema, ma i detenuti che riscuotono la pensione, per esempio, però non c'è nessuno che possa andare alla posta a prendere la pensione e a portargliela, o cose di questo genere. Oppure, quindi hanno un conto corrente o alla posta o alla banca, e hanno dei bancomat che naturalmente vengono ritirati nel momento in cui vengono arrestati e sono al casellario. Quindi noi abbiamo una procedura per cui il detenuto viene con noi davanti a un ispettore di polizia, fa la delega, con quella delega, che viene naturalmente vistata e approvata dal direttore, si va a ritirare il bancomat, a fare il prelievo, a fare il versamento del prelievo. È un servizio anche abbastanza pesante, perché dipende dal fatto, cioè c'è stato un lungo periodo in cui dentro il carcere c'era uno sportello bancario e quindi si poteva ritirare dentro il carcere. C'è stato addirittura un periodo che bisognava uscire fuori, andare a fare almeno 4-5 chilometri per arrivare a un ufficio postale e fare il prelievo. Io Beppe ti ringrazio chi ci ha seguito fino ad adesso, tra la cittadinanza e le persone dalle carceri che ci stanno ascoltando. Una canzone, siamo ancora con Fabrizio Moro, questo bellissimo brano che vinse Sanremo, si intitola Pensa, e ci rivediamo tra poco per i saluti di fine puntata. Scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi e troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte con pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole intatte, reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere. E siamo giunti ai saluti di fine puntata, vi annunciamo ciò che segue ancora per la mezz'ora di Liberi Dentro e Duradio TV. Abbiamo le pillole di Antigone oggi, che è giovedì, con il rapporto dell'Associazione Antigone sulla giustizia minorile. Questa è una prima parte di questo approfondimento. Poi seguirà Naufragi, idee di traverso, che dà la parola all'associazione La Piccola Carovana. Anche questa è una prima parte che seguirà la volta successiva. Scriveteci redazione liberidentro @gmail.com e come al solito da me, da Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Botta, Paola Leotti, un grandissimo saluto e ci rivediamo domani. Grazie. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.